Gli scavasauri. L'ingegnere minerario Alfio Centauri stava facendo colazione quando Alfa e Astra entrarono correndo nel casadromo. Papà, gli scavasauri hanno smesso di lavorare! Su alla cava, Bucasauro aveva smesso di forare e i raggi X degli occhi di Arcibaldo Opterix erano spenti. Dentoni inghiotti tutto se ne stava lì oziosamente con la sua potente mascella inoperosa. Scavabuchi, il cane robot, frignava sottovoce. «Pericolo!» disse Cervello Sauro con la sua voce piatta da computer. «I miei sensori captano acqua. C'è il pericolo di un'inondazione!» «Sciocchezze!» commentò Alfio Centauri. «Sai bene che l'unica acqua di cui disponiamo la dobbiamo portare qui in volo da idrofonte. I tuoi sensori sono guasti, Cervello Sauro. Metti subito quelle macchine al lavoro o mi toccherà venderti come ferro vecchio!» Girò sui tacchi e se ne andò. Ma i bambini rimasero. Le macchine si voltarono tutte verso Cervello Sauro, che con voce tremante impartì l'ordine. «Tutti al lavoro!» Bucasauro cominciò a perforare il duro suolo. Dinamisauro piazzò la dinamite. Poi Scattosauro pigiò il detonatore. Tonnellate di pietre saltarono per aria. Poi, silenzio. Astra respirò forte e disse: «Meno male, l'acqua non c'è!» All'improvviso, con un gorgoglio soffocato, un getto d'acqua viola schizzò fuori dal buco, salendo in una colonna sempre più alta, per ricadere poi in una cascata attorno a lui. «Emergenza! Evacuate!» gridò Cervello Sauro. «Corriamo a casadromo!» strillò Astra. Corsero via, seguiti dagli scavasauri. Ogni tanto Alfa si voltava e vedeva la colonna d'acqua viola elevarsi verso il cielo, per poi ricadere, sommergendo le gru e i camion in un mare di fango. Casadromo era circondata dalle acque. Mamma e babbo stavano aspettandoli sulla porta con le valigie spaziali. «Evacuare! Evacuare!» ronzava Cervello Sauro. «Abbandonare il pianeta! Dobbiamo raggiungere la navetta sulla collina!» ordinò Alfio Centauri. Un'ondata scaraventò Alfa per terra, lo rialzò per aria e, insieme ad Astra, lo scaraventò sul tetto. Di lassù poterono vedere che un mare sotterraneo aveva spaccato la crosta del pianeta e stava spazzando via tutto. La navetta era irraggiungibile. «Non vorrei spaventare la mamma, ma ci sono delle cose nell'acqua!» sussurrò Astra. Anche Alfa le vedeva. Pinne di plesiosquali, tentacoli ondeggianti di polposauri. «E pensare che vivevano tutti lì, sotto di noi!» «Andremo tutti a nuoto alla navetta!» gridò il babbo gettandosi in acqua. «Non nuotare!» ammonì Cervello Sauro tirandolo fuori. Anche lui aveva visto le creature marine. Ad un tratto Dentoni, l'enorme bulldozer, si fece strada nell'acqua alta. Aprì le sue potenti mascelle, permettendo a tutta la famiglia di trovarvi rifugio. Poi, cigolando e soffiando, si mise in moto verso la navetta. L'acqua intorno alle sue gambe metalliche brulicava di bestie sottomarine. Bucasauro stava lottando con un pesce spada gigantesco. Dinamisauro gettava pezzi di dinamite addosso al plesio squalo. Scavabuchi abbaiava furiosamente contro una medusa. Il robot cameriere e lo chef di casadromo stavano a cavalcioni di Alfio Centauri, dando dei tremendi colpi di scopa sui tentacoli di un feroce polposauro. «Papà, riusciremo a entrare tutti nella navetta?» chiese Alfa. Alfio Centauri scosse la testa. «Purtroppo c'è posto solo per i robot. Gli scavasauri dovranno venire dietro di noi.» Finalmente il convoglio di scavasauri riuscì a portare la famiglia Centauri sana e salva fino alla collina. E immediatamente le macchine si misero a costruire un muro di terra per proteggere la navetta dall'acqua che saliva. «Entra dentro, Alfa, e chiudi lo sportello!» ordinò Alfio Centauri quando erano già tutti a bordo. «No, io non lascerò gli scavasauri!» dichiarò deciso Alfa. Ma lo chef pranzosauro lo afferrò e lo spinse dentro, chiudendo lo sportello. Mentre decollavano, potevano udire la voce piatta di Cervellosauro che diceva: «Umani evacuati! Umani evacuati!» Guardarono giù e videro tutti gli scavasauri raggruppati insieme sulla cima della collina. «Prossima fermata, la Terra!» disse Alfio Centauri, facendo finta di essere allegro. Ma tutti gli altri a bordo piangevano. «Ti prego, papà, facciamo il giro del pianeta un'altra volta, solo per salutare!» chiese Alfio. E così volarono lentamente intorno al pianeta sommerso. Quando furono sopra la collina, guardarono giù. Dentoni Inghiotti Tutto aveva inghiottito Arcibaldo e Dinamisauro e stava per ingoiare anche Pranzosauro. Cervellosauro armeggiava e si dava un gran da fare a svitare qualcosa sulla coda di Dentoni Inghiotti Tutto. Si vedevano dei pezzetti di metallo cadere in acqua. «Cosa stanno facendo? Bisticciano?» chiese la mamma. Ma Alfa e Astra sapevano. Si abbracciarono felici e appiccicarono i volti al finestrino posteriore della navetta. Vi fu il lampo di un bruciatore posteriore e dal pianeta si innalzò uno stranissimo razzo. Nelle mascelle aperte di Dentoni sedeva Cervellosauro con le gambe penzoloni e dentro a Dentoni Razzo gli altri scavasauri girellavano come felici passeggeri. «Cervellosauro ha trasformato Dentoni in razzo!» gridarono felici Alfa e Astra. Le due navette spaziali si allontanarono dal pianeta sommerso in cerca di un altro pianeta e di un'altra casa.